Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati, rischieremmo un sommovimento sociale. Sono bastate queste parole, attribuite dal Corriere della Sera al presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, che le avrebbe pronunciate nel corso di un convegno lo scorso 6 ottobre, a scatenare non un sommovimento, ma di sicuro una forte reazione da parte di tutti i lavoratori che possono essere ascrivibili alla categoria, appunto, dei cosiddetti parasubordinati. L'INPS in questi giorni sta inviando qualche milione di lettere proprio a questo tipo di lavoratori, dopo quelle spedite a luglio ai lavoratori dipendenti per spiegare come consultare online la propria posizione previdenziale per verificare, cioè, i contributi che risultano versati. E però ci sarebbe un trattamento diverso, perché per loro non sarà possibile simulare sullo stesso sito quella che dovrebbe essere la propria pensione, cosa che invece possono fare i lavoratori dipendenti. E allora tra l'altro le smentite dell'INPS sulla veridicità di questa dichiarazione e tutte le polemiche che si sono scatenate, di fatto è stato sollevato un problema che esiste. Quale sarà la pensione futura dei lavoratori parasubordinati? Un'inchiesta di un altro giornale, il giornale delle partite IVA, che peraltro è in edicola da pochissime settimane, intitola proprio una storia di copertina in questo modo: una pensione da fame. Allora noi stamattina abbiamo voluto, così, anche se non è esattamente sempre un tema tipico della nostra trasmissione, tornarci per fare un punto, per capire qual è l'esatta portata anche della polemica che si è scatenata, perché ha avuto un tantame enorme tra i lavoratori giovanissimi su Facebook, e quindi sono stati ovviamente trovati tutti i canali possibili per sollevare l'attenzione e su questa dichiarazione e sulla realtà e lo stato, appunto, delle cose. Marco Loconte, Plus 24 del Sole 24 Ore, ciao. Ciao, ciao Deborah, buongiorno a tutti. Poi saluto Maria Rosa Gheido, consulente del lavoro ed esperta in materia previdenziale per il Sole 24 Ore. Dottoressa Gheido, tornata a Salva Danaio. Grazie, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Ci collegheremo tra poco con il direttore del giornale delle partite IVA, Francesco Bogliari, e poi anche con un'altra collega giornalista, un'animatrice di blog, è una giornalista di Blogosfera e del Fatto Quotidiano, la collega Eleonora Bianchini, che peraltro è stata proprio anche l'autrice del tam-tam che si è scatenato su Facebook e che naturalmente ha attirato l'attenzione di tanti giovanissimi. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre considerazioni, se volete intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666. La borsa è positiva, lo dicevamo nel giornale radio, rialzo di quasi un punto e mezzo a Parigi e Francoforte, Londra più 1,30, FTSE MIB più 1,13%. Oggi arrivano molti dati dagli Stati Uniti, arriva la trimestrale di un colosso bancario, JP Morgan. Ieri Intel ha movimentato, oggi la sta movimentando la seduta in Europa, il colosso dei chip ha chiuso il trimestre con un buon con solidi profitti grazie alle economie emergenti che continuano a crescere e continuano quindi a rappresentare una forte domanda per questa società, grazie alla buona domanda di computer. Intel stamattina traina tutti i titoli del settore in Europa, a cominciare da STM che a Milano guadagna il 3,61%. Bene Bulgari, più 2,79 Azimut, più 2,46 Saipem, più 2,42 CIR e Mediaset in rialzo di 2 punti. Segno meno invece su pochi titoli: Snam Rete Gas meno 0,46, Unipol meno 0,27, Popolare di Milano meno 0,07%. L'euro è tornato vicino alla quota di 1,40 sul dollaro e ai massimi da 5 mesi nei confronti della sterlina. Un buon dato spagnolo stamattina, ci piace enfatizzarlo, l'abbiamo detto anche nel giornale radio, stanno ritornando le vendite di case, c'è un grande invenduto nel mercato immobiliare americano-spagnolo e questa è stata anche la ragione della gravissima crisi in cui questo paese si trova, ma insomma più 30% di vendite di case in agosto ci sembra anche una buona indicazione di recupero abbastanza forte di questo comparto. Petrolio a 82-83 dollari tra New York e Londra. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo della pensione dei lavoratori parasubordinati. Al precario non far sapere che pensione avrà. Un tormentone che da qualche giorno rimbalza soprattutto nella rete, dove si rincorrono commenti e reazioni alle parole del presidente dell'INPS. Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati, ha dichiarato Antonio Mastrapasqua, rischieremmo un sommovimento sociale. La battuta non poteva lasciare indifferente il popolo dei Co-co-co e delle partite IVA, i 4 milioni di iscritti alla gestione separata dell'INPS, che nei prossimi giorni riceveranno una lettera che spiega come consultare online la posizione previdenziale personale, verificare insomma lo stato dei contributi versati. Comunicazione analoga a quella inviata a luglio ai lavoratori a tempo indeterminato, con la differenza che questi ultimi potevano accedere anche al dato di simulazione della pensione che percepiranno. Autonomi e precari, tra cui molti giovani che entrano sul mercato del lavoro in ritardo, con paghe non adeguate e lunghi periodi di discontinuità nell'occupazione, restano quindi nel dubbio e nel timore che un sistema pensionistico iniquo li costringa a versare contributi anche consistenti, pagando la pensione a chi riesce a maturarla, senza però poter contare sulla medesima prospettiva. Per gli imprenditori di se stessi, quindi, diventa fondamentale sapere cosa li aspetti e poter individuare fin da subito, se necessario, le strade alternative da intraprendere, come pensioni private e rendite di scorta, ed evitare di ritrovarsi ad affrontare la vecchiaia con una pensione sotto la minima. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi. Marco Loconte, una dichiarazione di questo tipo, poi lo ribadiamo ancora, attribuita al presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, che ha successivamente corretto il tiro, poi magari ricostruiremo anche così un po' tutti i rivoli giornalistici di questa vicenda, ma una dichiarazione di questo tipo magari 10 anni fa non avrebbe sortito di certo tutta questa sollevazione. Oggi, visto che l'ingresso nel mondo del lavoro per tutti i ragazzi è condizionato solo ed esclusivamente dall'ottenimento di contratti di questo tipo, è chiaro che la preoccupazione che si è generata è stata enorme, era inevitabile. Sì, diciamo una cosa di buon senso che prova a incardinare i nostri ragionamenti in un ordine di chiarezza. È abbastanza evidente a tutti che sì, per entrare nel mondo del lavoro si entra spesso di frequente con contratti di tipo parasubordinato, co-co-pro in particolare, per esempio. È di altrettanta evidenza che l'obiettivo non è di andare in pensione con questo tipo di contratti, ma con dei contratti di lavoro di natura collettiva, di diversa forma, diversa caratura, diversi, cioè differenti, cioè i contratti, quelli che, di cui beneficiano, che hanno sottoscritto le categorie imprenditoriali, insomma, i metalmeccanici, i chimici, i lavoratori del settore finanziario, per esempio. Per cui il co-co-pro è un contratto d'ingresso, diciamo. Poi la dottoressa Gheido potrà precisare nel dettaglio e meglio il significato di quanto io sto banalmente dicendo. Per cui è evidente che la stima di una pensione futura rispetto alla posizione di chi ha iniziato, per esempio, da un anno, da 2 anni o anche da 5 anni a lavorare è estremamente difficile, perché la stima, e lo ripeto, una stima non è né una promessa né una garanzia, si basa su una serie di variabili, e evidentemente le variabili di chi ha davanti a sé 40 anni di lavoro e ne ha fatti, diciamo, 35 anni di lavoro e ne ha fatti soltanto 2 o 3, evidentemente è immediata la comprensione del fatto che la stima è estremamente vaga. Ecco, per cui ha ragione sotto molti aspetti Mastrapasqua a dire: non possiamo dire che si andrà in pensione con così poco, perché si percepisce così poco, e dunque quello che è, diciamo, si potrebbe sicuramente far di più. L'Istituto Nazionale di Previdenza, così come gli altri enti di previdenza, è affinare invece il meccanismo di stima della pensione futura, perché in relazione del quanto io otterrò in futuro, che posso organizzarmi uno strumento complementare di tipo di privato, per esempio le fondi pensione o altri strumenti che mi possano garantire un tenore di vita non eccessivamente debole quando andrò in pensione, che lo ricordo è anche la fase della vita in cui si ha anche in genere più necessità di aiuto da parte degli altri. Allora, tutta un'altra conseguenza ovviamente di questa questione è stata determinata anche dal fatto che in qualche maniera, e questa tra l'altro è anche un'accusa che viene un po' mossa qualche volta noi giornalisti quando ci occupiamo di questi argomenti, è che si tenta di riportare l'attenzione sulla necessità di costituirsi una pensione di scorta, una pensione integrativa, ma oltre ad avere dei contratti sempre all'insegna del precariato, questi lavoratori subordinati a stipendi a volte che sono assolutamente, non dico ridicoli, ma del tutto insufficienti anche ad avere un regime di vita dignitoso, e insomma immaginiamo come si possa anche mettere da parte una fettina di questo stipendio per cominciare sin fin da subito a costruirsi una pensione complementare. E quindi in sostanza ecco che il dibattito si allarga. Dottoressa Gaido, insomma, che idea si è fatto rispetto a tutto questo polverone, che non lo è poi mica tanto, che si è appunto scatenato in questi giorni? No, lei ha ragione, Deborah. Non è un polverone, anche se credo che questa frase in realtà è una frase proprio un po' convegnistica, quindi volta a sollevare l'attenzione. Attenzione che il problema però merita, perché è vero quello che dice Marco Lo Conte sul fatto che spesso il lavoro a progetto non è altro che un modo per entrare nel mondo del lavoro, così come ci si entra con l'apprendistato o col contratto di inserimento lavorativo. Però è altrettanto vero che in questi 4 milioni di destinatari dell'informativa dell'INPS non ci sono soltanto i lavoratori a progetto, ci sono tutto il popolo cosiddetto delle partite IVA, che non è inquadrabile nei settori tradizionali dell'artigianato, del commercio e delle professioni cosiddette albiste. Un mondo eterogeneo, assolutamente. Esatto, quindi un mondo estremamente eterogeneo che iscritto alla gestione separata del lavoro autonomo sta sperimentando e vive quindi sulla sua pelle il nuovo regime contributivo che fra 20 anni, 25 anni interesserà comunque anche tutta la platea dei lavoratori subordinati, e che è quello del regime contributivo. Pertanto non si può dire non avranno la pensione, perché col regime contributivo è come se io stipulassi un'assicurazione, quanto verso si accumula, si rivaluta e prima o poi mi garantirà un trattamento pensionistico. Quindi in realtà io accantono per me stesso. Quello che però è verissimo, e quindi è giusto che si sollevi l'attenzione su questa problematica, è che le regole della gestione separata sono regole del tutto particolari e diverse rispetto a quello del lavoratore subordinato. La pensione che matura è una pensione che quasi inevitabilmente è bassissima, perché basse sono le aliquote, anche se adesso si stanno innalzando e avvicinando a quelle del lavoratore subordinato, ma molto basse spesso sono le basi imponibili. E io qui vorrei, e i tassi di sostituzione si ridurranno ulteriormente, perché poi la vita media si andrà allungando ulteriormente. Ma io qui vorrei segnalare un problema sul quale magari torneremo anche. Sì, rapidamente, che vado già in pausa, molto, ma lo anticipiamo. Butto lì che se non si versa una contribuzione almeno su 14.000 euro erotti, non matura un anno di contribuzione, anche se l'anno è stato lavorato. Quindi un compenso di 7.000 euro occorrono 2 anni di lavoro per maturarne uno di trattamento. E quindi insomma uno dovrebbe lavorare fino a 100 anni. Sì, per cui tutti questi problemi è giusto affrontarli per tempo. Quindi insomma magari Mastra Pasqua non avrà esattamente detto quello che gli è stato attribuito, ma di fatto tanto è bastato a qualche collega solerte a sollevare l'attenzione su un problema che è destinato a diventare una vera questione, se non addirittura una vera e propria bomba sociale nel giro di una ventina d'anni. Noi magari la stiamo anticipando con grande anticipo, ma in realtà il tema previdenziale è un tema enorme sul quale stiamo battendo il ferro, è un ferro caldo già da tempo. 800 24 00 24, ci fermiamo, tra un po' abbiamo il collega Bogliari, anche la collega Bianchini e poi Giorgio da Prato e tanti altri ascoltatori pronti ad intervenire tra pochissimo. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Oggi andiamo al tema del lavoro e delle pensioni, lavoratori parasubordinati, la pensione che percepiranno in futuro, un tema che è molto bello, molto interessante, molto frustrante anche per certi aspetti che devono essere analizzati, perché ovviamente non ci sono oggi, come dire, le possibilità per poter garantire a tutti i ragazzi che si stanno adesso introducendo nel mondo del lavoro, come dire, di guardare con serenità anche quello che potrebbe essere un futuro pensionistico. Certo, data la giovane età, molti tendono a rinviare il problema. Di fatto, a parte la giovane età e magari l'entusiasmo con il quale ci si così appresta a cercare lavoro e a cercare la migliore opportunità professionale per sé, è anche vero che oggi gli stipendi che si riescono a raccattare, perché non mi viene un altro termine, sono talmente minimi che anche se qualcuno volesse pensare ad un come dire, una forma di previdenza complementare, non ne avrebbe davvero, a meno che non ci sia un genitore alle spalle in grado di aiutare, non ci sarebbero davvero le opportunità. Questa faccenda è stata un po' ritirata fuori nei giorni scorsi posti, perché c'è stata questa frase che avrebbe detto il presidente dell'INPS ad un convegno, secondo la quale non si può dare in questo momento una simulazione della pensione che potrebbero prendere i parasubordinati, perché ci si renderebbe conto che è talmente bassa che si solleverebbe un sommovimento sociale, ha detto Mastrapasqua. E però insomma il tema è stato sollevato, e come, anche attraverso i blog, attraverso Facebook, e poi vi racconteremo le modalità. C'è un'osservazione di un'ascoltatrice, un'osservazione, una domanda, Benedetta, che è proprio la persona che ci rappresenta al massimo quello di cui stiamo parlando stamattina, la categoria sociale di cui stiamo parlando stamattina. Ho 26 anni, ho aperto la partita IVA nel 2008 per poter fare il perito assicurativo. Che prospettive, che alternative per la mia pensione? E insomma, qualche alternativa, le prospettive le descrive anche in questa storia di copertina, Una pensione da fame, il giornale delle partite IVA. Francesco Bogliari, buongiorno direttore. Buongiorno, Deborah. Eh sì, anche voi avete un po' ricostruito tutte quelle che potrebbero essere le prospettive di questi ragazzi. Il titolo non è che sia molto incoraggiante, ma forse trovarne un altro un po' più che potesse dare un po' più di serenità è difficile in questo momento. Allora, se mi passi la battuta, vorrei dire che il presidente dell'INPS riceverà da noi delle ricche royalties, perché ci sta lanciando, è il promotore indiretto, involontario, del lancio della nostra rivista, che il primo numero uscito in edicola 10 giorni fa, il servizio di copertina d'inchiesta condotta da un bravissimo giornalista, Andrea Telara, sì, specialista di questi temi, nostro amico, sì. è un servizio che veramente fa gelare il sangue nelle vene. Allora, i numeri che non vuol dare Mastrapasqua li diamo noi, nel senso che noi abbiamo semplicemente preso da un motore di calcolo disponibile su internet, realizzato da una società di consulenza partecipata dal Ministero dell'Economia, che si chiama MEFOP, abbiamo fatto delle simulazioni. È ovvio, come dice Mastrapasqua, che le simulazioni, ma chiaro, dando tutte le cautele del caso, se uno con questa età, con un certo reddito netto, continuasse così, avrebbe queste cose. Vediamo, noi abbiamo fatto alcune simulazioni, non voglio tediare gli ascoltatori, ma qui si parla in tutti di perdita del tenore di vita rispetto al reddito medio attuale del 75%, cioè una partita IVA, cioè un lavoratore autonomo che oggi guadagnasse un reddito medio netto di 1.200 euro al mese, e se prolungasse questo reddito nel corso degli anni che gli restano per arrivare alla pensione, invece dei 1.200 euro al mese se ne ritroverebbe 400, al netto delle trattenute fiscali sulle pensioni. Gli amici, quindi, tra l'altro, volevo solo ricordare, direttore Bogliari, che comunque il MEFOP è stato anche spessissimo ospite della nostra trasmissione, soprattutto quando con Marco Loconte abbiamo fatto tutte le centinaia, direi, di trasmissioni sulla previdenza complementare e la riforma del trattamento di fine rapporto. E Marco, anche tu so che li senti spesso, e che questi dati che Bogliari ci dava effettivamente sono disponibili, solo che, come dire, l'INPS non li può certificare di sua sponte. L'INPS ha, come dire, una certa timidezza nel certificare questi dati, dando un imprinting da parte dell'Istituto di Previdenza pubblico, e quindi trasformando una stima in un qualcosa che dal loro punto di vista diventa quasi più una promessa, una garanzia, qualcosa di garantito. Vero è che in assenza di informazione la stampa ha più agio, e i dati di cui parlava Bogliari, cioè quelli di MEFOP, su cui EFESO ha costruito il motore, sì, di ricerca dal punto di vista del software, ci danno delle indicazioni effettivamente poco incoraggianti sul prossimo futuro. Io ripeto la premessa a questa trasmissione: è evidente che chi oggi ha un cocopro, ha un contratto di questa natura, analogo, punta evidentemente ad avere poi un altro tipo di contratto, di tipo subordinato, e di tipo è anche quantitativamente più ricco sostanzialmente. Quindi rimaniamo con l'idea che questo tipo di contratto è un contratto per entrare nel mondo del lavoro, e rimaniamo con l'idea che poi i contratti diventino migliori, perché evidentemente poi è vero, e anche i contratti di tipo subordinato da lavoratore dipendente prevedono, per chi oggi ha 30 anni, 40 anni, un decurtamento delle entrate dal momento in cui si va in pensione, dall'ultimo stipendio al primo assegno pensionistico, anche superiore al 50%. Mm-hmm. E questo è un dato di fatto di cui ormai c'è contezza, cioè la gente si sta rendendo conto. tutte le generazioni, sia i settantenni che i trentenni, quindi sia i padri che i figli, diciamo così tanto per generalizzare, sta rendendo conto che chi oggi inizia a lavorare andrà in pensione con una parte esigua dell'ultimo stipendio, e dunque è necessario che qualcosa si faccia, qualcosa. Esatto, lo ricordiamo che è frutto anche della riforma Dini del 95, che ha stabilito appunto che l'ammontare del nostro assegno pensionistico avvenga sulla base dei contributi che abbiamo versato nel corso della nostra vita lavorativa, non sulla base del nostro ultimo stipendio percepito. Esatto, che era, come dire, era molto ricco in passato, quindi insomma i vecchi pensionati per fortuna possono godere di un tenore di vita. Marco, il problema è che il sistema Ladini, varata nel 95, entrerà in vigore negli anni e lo sta entrando prossimi. Gradualmente, ecco. Esattamente, sì. In Svezia invece l'hanno fatta entrare in vigore, l'hanno copiata sostanzialmente Ladini in Svezia, così come in altri paesi. È un sistema che è stato adattato in molti paesi, ma è entrato in vigore subito. La gente ha avuto subito la percezione che le cose stavano cambiando, perché i sistemi passati non erano più sostenibili. E allora cosa hanno fatto? C'è stato subito la percezione, c'è stato subito il passaggio al rimedio. Da noi, diluendo nel corso dei decenni l'entrata in vigore della Dini, abbiamo fatto perdere la percezione ai lavoratori, alle generazioni dei lavoratori, della necessità di adeguare le entrate future con un maggiore protagonismo del lavoratore. Certo. No? Non c'è più l'ente pubblico di previdenza che si occupa di noi, ma siamo noi che dobbiamo fare delle cose, un fondo pensione oppure arricchirsi in diversi altri modi. Insomma, ci sono modi coordinati e incentivati anche dalla legislazione, e altri modi che non lo sono. Il passaggio di reddito e di denaro dalle generazioni dei settantenni a quelle dei trentenni è già iniziato e si inizierà a decumulare le ricchezze che gli italiani hanno creato fino adesso a vantaggio della sostenibilità, insomma, delle entrate di chi invece oggi ha davanti a sé un percorso molto accidentato di carriera. Allora, però, siccome non vogliamo neanche scoraggiare completamente i ragazzi che ci stanno ascoltando, allora, e se nel frattempo l'INPS non è in grado di fornire e non vuole fornire la simulazione della pensione ai parasubordinati, ci sono però delle vie alternative, le abbiamo in parte citati. Marco, magari adesso la facciamo anche noi una simulazione, però sul tema della simulazione c'era l'osservazione di un ascoltatore, che è Giorgio da Prato. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, Laura Rossani, buongiorno. Sì, ci dica. Prima la trasmissione, innanzitutto. Meglio così. Devo precisare, io... Giorgio, mamma mia, l'abbiamo tenuta in ballo fino a questo momento, la telefonata è pessima, la ripeschiamo al volo, adesso Gaia la richiama, intanto allora andiamo a sentire Paolo da Trento. Ah, buongiorno, mi scusi. Io volevo solamente intervenire in merito a quella che è la non percezione di quelle che non sono più risorse presenti e delle persone che sono in realtà, che hanno maturato una pensione, che sono in pensione attualmente e che prendono delle pensioni, ahimè, molto superiori rispetto al denaro che hanno versato. Questo noi, i giovani attualmente probabilmente non si pongono quasi nemmeno l'obiettivo della pensione, ma le persone che hanno magari lavorato 20 anni e poi sono andate in pensione con il sistema retributivo percepiranno una pensione molto più alta della mia, che però versato probabilmente 4, 5 o 6 volte di più di loro. Lo so, Paolo, d'altronde che cosa facciamo adesso? La riduciamo a queste persone che già la prendono? Qual è il sistema, secondo lei, per riequilibrare la situazione? Le regole in passato erano diverse, l'età media era più bassa, adesso dobbiamo affrontare anche tutta la questione anagrafica. Marco, ritorno da te, ma magari anche dalla dottoressa Gheido, perché questo è il tema fondamentale sul quale abbiamo anche tanto focalizzato l'attenzione quando spiegavamo la riforma del trattamento di fine rapporto, perché quando la gente gli si spiega che il TFR deve andare a farti la pensione di scorta per il futuro, ancora continua a percepirla, e i numeri lo dicono chiaramente, come uno scippo da parte chissà di chi. Il tema è che comunque tutti viviamo di più e qua la coperta è sempre corta. Sì, poi lo scippo, cioè già il TFR comunque non è nella disponibilità del lavoratore, ma dell'azienda che lo preleva alla fonte, cioè l'azienda versa al lavoratore il 93% del suo reddito, non il 100%. Questo è sempre stato così. Ora che il TFR stia nelle casse dell'azienda o di un fondo pensione, per il dipendente non ha molta differenza, se non in quelle rare eccezioni, rare, neanche tanto rare, in cui l'imprenditore dal suo dipendente elargisce il denaro alla bisogna. A Milano ci sono più oltre 75 anni che minorenni. Ecco. Cioè, questo è un dato di una città estremamente viva, vitale. Esatto. Allora, se a Milano ci sono più oltre 75 anni che minorenni, significa che c'è un invecchiamento progressivo della popolazione. E che quei giovani devono mettersi, come dire, il cuore in pace, che di quella popolazione anziana si deve prendere cura in tutte le forme, anche finanziariamente. Il punto è la consapevolezza, cioè si parte e si finisce dalla consapevolezza. Allora, questo è un dato di principio. Diceva il nostro ascoltatore, i pensionati oggi percepiscono più di quanto hanno dato. Si pensi alle pensioni sociali, sono da fame, sì, però comunque danno più di quello che la gente, di queste persone hanno versato. Che non hanno versato a volte niente, perché magari la casalinga, giustamente, cioè, povera, ha stralavorato più magari del marito che faceva un altro lavoro, però di fatto, insomma, questo, vabbè, sono le questioni anche di iniquità sociale che oggi non abbiamo tempo di affrontare. Ci fermiamo, 800 24 00 24, ritorno poi anche alla dottoressa Gheido, a Francesco Bogliari, dobbiamo sentire Leonora Bianchini, Giorgio D'Aprato, tra poco. Allora, prima di sentire Giorgio D'Aprato, ormai ha aspettato tanto, volevo risentire Maria Rosa Gheido leggendole un messaggio di un ascoltatore che si chiama Michele, che ci dice: partita IVA, se io denuncio 14.000 euro, verso quasi 4.000 euro di contributi e ho un anno di contributi, un anno appunto accreditato, come prima ci spiegava dottoressa Gheido, ma dai 14.000 euro mi viene calcolata l'IRPEF e tutto ciò che ne deriva. Alla fine ho guadagnato 7.000 euro, per questo tanti non dichiarano tutto e inoltre i contributi non possono essere messi come spesa, quindi ci paghi pure le tasse. Insomma, adesso un messaggio un pochino di confusione, ma la sostanza l'abbiamo capita. Lei fa la consulente del lavoro, dottoressa Gheido. A chi ha queste forme di contrattualizzazione con le aziende, che cosa suggerisce di fare? E saranno tanti, immagino. Beh, sì, sono tanti, un po' perché il lavoro a progetto, la collaborazione coordinata e continuativa è usata in modo un pochino anomalo, come diceva Marco, come strumento per entrare nel mondo del lavoro, mentre invece dovrebbe essere un contratto di lavoro con caratteristiche sue. Quindi a chi inizia questo tipo di attività, io più che altro cerco di spiegare le cose che oggi ci stiamo dicendo e che, tanto più quella persona non è giovanissima, tanto più opportuno che sappia. Innanzitutto all'ascoltatore dobbiamo dire che comunque ciò che si paga in contribuzione è deducibile, quindi non si pagano almeno le tasse su quello, però è un dato di fatto che a redditi così bassi non è consentito trovare spazio per diciamo paracaduti diversi dall'obbligatorietà. Non solo, abbiamo prima parlato di trattamento di fine rapporto, ma non possiamo dimenticare che i cosiddetti parasubordinati, i lavoratori a progetti co-co-co, non hanno un trattamento di fine rapporto e quindi meno guadagnano e meno possibilità hanno di crearsi delle previdenze alternative, che io comunque consiglio sempre quando si presenta qualcuno che si pone il problema o anche se non se lo pone che mi chiede cosa mi succederà, cosa mi riconoscono. Cerco di spiegargli che oggi bisogna pensare al futuro, nel senso che il trattamento minimo non ci sarà più, non è più garantito. Io credo che poi sarà reintrodotto magari come forma di assistenza e di solidarietà, ma oggi, come sistema previdenziale, dobbiamo mettere in conto anche che mi daranno esattamente il trattamento che io ho maturato con i miei versamenti contributivi. Vado a sì, la faccio concludere. No, dico, quindi è inevitabile, anzi io credo che trasmissioni come questa, che sensibilizzano comunque la visione del futuro, siano veramente oggi indispensabili. Però vedo anche, è vero, esatto, gli anni passano, altro che no. Il problema è che io vedo anche tanta frustrazione in chi ci scrive e che dice: voglia che voi parlate, perché qua noi non arriviamo alla fine del mese, figuriamoci se possiamo permetterci la pensione integrativa. Eleonora Bianchini, una collega che scrive per Blogosfera, per Il Fatto Quotidiano, ma soprattutto era stata molto solleticata da questa dichiarazione del presidente dell'INPS e oltretutto è anche una collega giovanissima. Eleonora, tu hai qualcosa come 26-27 anni, per cui 29. Diciamo, te ne avevo dato un po' meno. Però in ogni caso, come dire, interessata all'argomento per più aspetti, sia perché ci ritrovi, diciamo, dal punto di vista anagrafico nel bel mezzo del problema, e poi hai sollevato tutta la polemica, hai fatto in modo che si sollevasse tutto il polverone su Facebook. Come è andato questo passaparola? Esatto, è successo in maniera molto semplice, cioè domenica sera controllavo cosa avevo nella mia home di Facebook, per cui i miei vari contatti cosa avevano pubblicato, e trovo questo link di AgoraVox e di Intrage, che sono appunto i due siti che hanno riportato la notizia della dichiarazione di Mastrapasqua. Per cui all'indomani decido di scrivere un post, ovvero un articolo da pubblicare sul mio blog, e chiedo ai miei contatti di diffonderlo il più possibile su Facebook, e loro fanno tutto, per cui io ringrazio veramente chi ha preso a cuore questa situazione, chi è stato sensibilizzato dalla dichiarazione di Mastrapasqua, che ha colpito indubbiamente per la sua leggerezza, inserita anche in un contesto dove i precari vengono sempre affrontati con modalità pilatesche, in sostanza vengono interpretati come delle sagome indefinite, il cui futuro è totalmente in balia del fatto, in sostanza. E questa frase finalmente ha risvegliato una classe dei precari, tra cui ci sono anch'io, insomma faccio parte di questa categoria, che è dormiente perché è vessata da anni, perché è vessata e non trova risposte alle proprie domande. Eleonora, tu ce la fai a metterti da parte una pensione di scorta in questo momento? Io ce la potrei fare, ma la condizione media non è quella della pensione integrativa. Infatti questo è proprio il problema, che è sorto dai commenti che ho ricevuto, dalle mail che ho ricevuto, che sono state davvero centinaia, perché i punti sono stati questi fondamentalmente. Primo, quali sono i sindacati che si occupano di noi oggi? E la risposta è nessuno, perché i sindacati si occupano dei loro tesserati, che sono persone generalmente oltre i 40 anni o che comunque generalmente non sono precarie, hanno altri tipi di contratto. In tanti non vogliono più pagare i contributi. Però il problema che sorge è: abbiamo delle multe da pagare, per cui probabilmente ci toccherà continuare a pagare i contributi. Soprattutto l'abuso dei contratti a progetto, in effetti il 90% di chi ha un contratto a progetto è un lavoratore a tutti gli effetti, e poi questa incertezza della pensione. Vorrei anche moderare, se me lo permettete, l'ottimismo di Marco, perché dice che il contratto a progetto è un modo per entrare nel mondo del lavoro, è un modo per rimanerci nel mondo del lavoro, perché quello che precede il contratto a progetto è una litania, solitamente, di stage infiniti. Eleonora, guarda, ti posso assicurare che passano anche qui in redazione. Marco ha detto prima, parlando del migliore dei mondi possibili, sì, cioè, questo è il modo per entrare nel mondo del lavoro, ho detto anch'io un paio di volte, essendo anche se ci sono metodi, come diceva la dottoressa Gheido, molto più appropriati, apprendistato e quant'altro. Questo dovrebbe essere una categoria 6, in realtà è una categoria che esce da tutte le regole, in realtà pervaso tutti i campi, e questo è un po' il malessere. Allora, grazie Eleonora, se ci ritorniamo sull'argomento, facci sapere un po' come va il tuo tantam e magari così aggiorneremo anche. Sicuramente vi terrò aggiornato. grazie molte. Io però, siccome avevo detto anche che avremmo parlato dei simulatori della pensione, Giorgio da Prato, rapidissimo, speriamo di sentirla meglio, così chiudiamo con lei. Giorgio? Sì, adesso meglio, sì. Sì, buongiorno. Volevo presenti per la trasmissione. Volevo far presente una cosa, che fino a un mese e mezzo fa circa, accedendo nel sito INPS, potevamo verificare la simulazione della pensione. Sì. Questa è stata praticamente tolta. Io sono un lavoratore a tempo indeterminato. Ecco. Per allora, per un discorso anche di trasparenza, dovrebbero a questo punto reinserire. Mamma mia, Giorgio, alla radio accesa. Comunque abbiamo capito la sostanza, è vero, Marco? Sì. Sì, abbiamo avuto diverse segnalazioni di questo tenore. Ma non funziona in manutenzione, secondo te? Oppure no, anche lì non è che è stata presa questa polemica per non farlo vedere neanche agli altri? No, non credo. Aspetta, che ci pensi. No, c'è stato. Ora c'è un software che bisogna scaricare, che cambia. E che rende tutto molto più complicato nella visione rispetto al passato. Il passato l'INPS dava la possibilità di avere una stima, questo è venuto un po' a cadere, ci sono categorie molto diverse tra di loro e stiamo un po' indagando per cercare di capire che cosa sta accadendo. E allora perché... magari ci ritorniamo. Marco, rapidamente, mi dici Efeso come funziona? Efeso, allora se vogliamo calcolare la nostra pensione? Sul sito del Sole 24 Ore è presente il motore di calcolo, noi lo chiamiamo pensionometro, lo riproponiamo periodicamente in un spazio visibile, molto visibile ai nostri navigatori, in modo da poter calcolare, a seconda di quelle che sono i nostri dati anagrafici e professionali, una stima, lo ripeto, una stima di quello che naturalmente potrà essere, spera che non ci siano altre crisi terribili come quella degli ultimi 3 anni, perché sennò fra 10 anni ci torneremo a parlare di questo argomento, parlando no di una pensione da fame, di una pensione che è diventata completamente invisibile. L'ultimo saluto lo concedo a Francesco Bogliari, direttore del giornale delle partite IVA, che peraltro, se non ho capito male, è a sede della CGIL a Roma oggi, per cui avrà modo anche di discutere discutere di argomenti interessanti con il mondo sindacale. Ha sentito cosa diceva Eleonora Bianchini prima? Che questi lavoratori non hanno un sindacato di rappresentanza, si sentono proprio abbandonati anche dalla triplice. In questo momento ci sono in CGIL Roma. Magari può portare anche questa. Stiamo facendo un'intervista al responsabile proprio dell'area professioni e lavoro, lavoro autonomo e lavoro atipico. I sindacati confederali si sono mossi con molto ritardo, sto parlando anche di CISL e di UIL, ma si stanno muovendo. Nel benissimo. Senso che stanno raccogliendo alcune decine di migliaia, già da alcune decine di migliaia di iscritti, perché si rendono conto che è la nuova frontiera. Benissimo. Qua. Bogliari, grazie. Allora, in bocca al lupo per la prossima storia di copertina. Ci faccia avere il vostro giornale, così vediamo di trovare anche lì qualche spunto, oltre a tutti quelli che troviamo sul Sole 24 Ore. Ovviamente mi aspetto anche una paginona di Plus 24 su questo argomento. Sabato, Marco, ci stai pensando? Ci stiamo lavorando. Lavoro in corso. Grazie a tutti. Grazie a Marco Loconte, Maria Rosa Gheido, Francesco Bogliari, Eleonora Bianchini, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti in assistenza tecnica. Domani, ciao.